E Floriana De Leo è mia cugina, e sono molto molto orgogliosa di presentare questo libro perché è la storia della nostra famiglia, e per cui sono molto contenta e molto orgogliosa di presentarla. È tratto, diciamo, come dire, no? Dalla storia della nostra famiglia, dobbiamo essere forse più precisi. Passo la parola a Floriana, che un attimo si presenta, dice chi è e così. Allora, conosco quasi tutti e vi ringrazio appunto di essere venuti, perché è un piacere incontrarsi. Si sente? Sì? No? Forse questo va bene. Allora, dicevo, è un'occasione bellissima per rivedersi, per incontrarsi, perché ormai non abito più a Bolzano da molti anni. E quindi mi fa piacere rivedere le persone care. Io ho lavorato a Bolzano tanti anni, dopodiché mi sono trasferita nel Veneto, lì ho lavorato altrettanti anni come insegnante di sostegno, perché chiaramente lavorando nelle scuole tedesche non potevo avere il trasferimento nella scuola italiana. E niente, adesso sono in pensione, sono fortunata, e ho scritto questo libro alcuni anni fa, quando, in un periodo molto particolare della mia vita, quando la mamma stava molto male e io ero lì vicino a lei a cercare di consolarla, di farla distogliere, diciamo, da questo suo male. E nella cesta delle medicine avevo trovato un libricino rosso dove lei annotava tutte le cose che le capitavano, le cose più importanti, così. E da lì ho preso lo spunto e ho pensato: perché non posso raccontare questa storia che avevo, diciamo, nel cassetto da tantissimo tempo, che però insomma non era mai uscita. E pensavo appunto che magari la mamma avrebbe potuto darmi una mano nel racconto, e così insomma l'avrei tenuta mentalmente impegnata. Poi non è stato così, ma comunque io ho cominciato a scrivere, e devo dire che è stato anche bello, perché poi alla sera raccontavo a mio marito quello che avevo scritto, ed era un momento anche quello per chiacchierare insieme, per condividere. Condividere, anche, no? Certo, sì. E tutto quanto, tutta la vicenda comunque si snoda intorno a un personaggio che si chiama Teresa, che è il filo che conduce tutta la storia, e inizia questa storia intorno agli anni 20, primi del Novecento, quando Teresa viveva in Calabria comunque, poi via via si snoda. E come avremo modo di vedere, questa storia si snoda lungo tutta l'Italia. Questa la copertina la dice lunga. Ed è la storia di un'Italia, in un certo senso, è una micro storia, una piccola storia, che si introduce poi in una grande fase, no? È una storia che in un certo senso assomiglia a tante storie, però è anche unica, come lo sono le storie delle persone che in quegli anni, partendo dagli anni 30, 40, 50 e così via, hanno poi rifatto l'Italia, si è rifatto il nostro paese, perché c'è stata la guerra di mezzo, per cui è andata così. Io vorrei, se voi siete d'accordo, leggere già la primissima descrizione di Teresa. La scrittura di Floriana è molto vivida, è molto... sembrano delle pennellate a volte, no? Si ha davanti questa figura. Allora, era bella Teresa, era proprio bella, suo malgrado, alta, slanciata, capelli d'ebano raccolti in una treccia che le coronava il viso, occhi colore delle foglie d'arancio della sua terra, e tutto il resto graziosamente disegnato con una matita a punta fine. Era bella ma scontrosa e schiva, da far ombra a se stessa, e tutto per quella manina monca che teneva sempre nascosta tra le pieghe della sottana. Un incidente da piccola aveva inchiodato a 90 gradi il palmo delle dita della mano destra, e così non aveva mai imparato a scrivere il suo nome. Forse non sarebbe stato un problema tanto grande se quell'omone, il racconto di suo padre, Don Vito Spano, ruvido come la gente da Spromonte, non le avesse ripetuto da sempre che sfregiata a quel modo nessuno mai se la sarebbe pigliata. Non aveva imparato a scrivere Teresa, ma il mestiere della Cenerentola l'aveva dovuta apprendere ben bene, quello sì, fin da piccolissima. Il suo primo respiro era coinciso con l'ultimo della sua mamma e per questo aveva saltato a pie pari l'infanzia, il tempo dei giochi, e aveva sempre solo servito il padre dal quale oltretutto era considerato un peso. Lui non le perdonava di averlo reso vedovo con la sua nascita e poi, con quella manina così sfregiata, gli sarebbe toccato di tenersela in casa tutta la vita e, se per i mestieri domestici poteva anche servire, era pur sempre un impiccio, una palla al piede di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Non le parlava quasi mai, la trapassava da parte a parte con lo sguardo minaccioso. E se qualcosa di quel che lei faceva non gli garbava, era pronto ad alzare le mani alla minima disobbedienza. Così era cresciuta Teresa, silenziosa, timorosa e schiva, come chi cammina guardingo in punta di piedi per non occupare lo spazio, per non farsi scorgere. La sua libertà era fatta di brevi fughe, su per i sentieri sassosi, tra cespugli di ginestre e fichi d'India, spesso scalza, assettata di sole, alla ricerca di carezze del vento, del profumo della zagara e delle more succose rubate ai rovetti. Là poteva finalmente alzare lo sguardo al cielo, togliersi quel fazzolettone grigio che mortificava la sua capigliatura, perché si sa, le femmine costumate non devono svegliare gli istinti del maschio focoso con la sensualità del loro sguardo, incorniciato da lunghi capelli, quindi tra la gente, capo coperto e occhi bassi. Bene, Teresa cresce, diventa un'adolescente, poco più che un'adolescente, e il padre pensa bene di darla in moglie, solo che non la dà in moglie a un ragazzo giovane, la dà in moglie, la vende quasi praticamente a un uomo di più di 50 anni, lei che era poco più che adolescente, aveva 16 anni, questo, no? Pertanto si trova di fronte, di colpo, dall'infanzia praticamente quasi, a passare ad essere una donna, a dover essere una donna. E emblematica è la descrizione della scena della prima notte di nozze. Teresa si sposa, il prete consacra quest'unione. Sotto un grande quadro della Madonna addolorata che troneggiava a sbilenco su un muro grigiastro e scrostato, che a poco poco spogliava i mattoni sottostanti, c'era un lettone con una testiera di metallo nero e di lato un armadio semiaperto che lasciava intravedere panni gettati dentro alla rinfusa. Non c'era altro. Lui cominciò a svestirsi e le fece cenno di fare altrettanto, la camicia di fustagno gettata a terra, poi la cinta slacciata e i calzoni calati sugli stivali. Eiti, Caio Brescia, doveva sbrigarsi che lui aveva fretta. Nessuno le aveva mai parlato dei doveri coniugali e quando le toccò di trovarsi a tu per tu con quell'animale a cui il prete l'aveva consacrata come moglie, e che pretendeva di violare la sua intimità, Teresa gridò. E gridò come non aveva mai fatto in vita sua. Ma, nonostante tutto, quella volta lui riuscì ad aver ragione su di lei. La storia va avanti. Teresa non accetta quest'uomo, non lo vuole, non ne vuole sapere. E quest'uomo si arrabbia tantissimo dopo ripetuti tentativi di farla ancora sua. Dalla rabbia prende in mano un fucile e le spara. Che succede? Teresa è quasi in fin di vita e lui dal terrore di averla uccisa, dalla paura di averla uccisa, scappa, se ne va, fugge via e Teresa deve essere ricoverata in ospedale in fin di vita. E cosa succede? Che in ospedale conosce una persona conosce un tenente dei carabinieri. Sì. Un tenente dei carabinieri e si innamora di lui e lui si innamora di lei e così inizia questa storia. Ma lei è sposata? Lei è sposata. Comunque comincia questa storia, cominciano a frequentarsi e lei, in modo coraggiosissimo, fugge con lui, fugge e iniziano una vita insieme. In quegli anni potete immaginare lo scandalo, no? Ma comunque fugge, vivono insieme, si trasferiscono a Crotone. No, si trasferiscono in vari paesi, perché lui, essendo un uomo dell'arma, ovviamente veniva trasferito di qua e di là e lei lo seguiva, e in ogni paese c'era questa faccenda di dover affrontare il fatto che, appunto, lei, non essendo sposata, viveva in questa situazione di mala femmina, così, perché così era ritenuta dalle persone, e questa cosa le pesava moltissimo. Moltissimo, sì. L'ultimo trasferimento è stato proprio a Crotone, dove è iniziata la scuola. Però, attenzione, perché nel frattempo, chiaramente, da questa unione erano nati cinque figli nel corso degli anni, logicamente. Cinque figli a cui questa coppia doveva dare il nome, no? Ma il nome non lo poteva dare il padre dei figli, in questa storia solo a un figlio è riuscito a dare il proprio nome, e gli altri hanno avuto il cognome della mamma oppure il cognome di quel marito che era fuggito. Ecco perché questo libro si intitola Un cognome di troppo, perché pur essendo figli della stessa madre e dello stesso padre, purtroppo a questi figli è stato dato un cognome diverso, per cui sembravano figli di tre persone diverse. E Teresa, oltre alla, diciamo così, vergogna di dover vivere con un uomo che non era suo marito, nel senso che purtroppo non poteva sposare perché comunque l'altro marito era scappato, non si poteva fare nulla, aveva anche il problema di avere questi figli, e finché le figlie sono femmine, si sa, poi quelli si sposano e prendono un altro cognome, ma per i figli maschi non era così, e il problema sono nati, appunto, nel racconto si capisce che nascono quando i figli vanno a scuola, per cui devono giustificare questa, che non giustificano, non è possibile, insomma, sarebbe molto complicato doverlo fare, no? Molto complicato. Ma è stato anche il momento in cui i genitori hanno dovuto spiegare ai propri figli che cosa era successo, perché questi tre cognomi, fino a quel momento, insomma, non, loro personalmente non avevano più di tanto risentito della cosa. Però non tutti hanno vissuto questo fatto allo stesso modo, ciascuno l'ha elaborato in maniera diversa, e quindi lì la storia, insomma, evolve, e anche su questo versante. Comunque vorrei leggere un attimo questa parte, appunto, di quando i figli vanno a scuola. I problemi sorsero quando ci si mise di mezzo la scuola. Di quella famiglia che aveva vagato di paese in paese si sapeva ben poco. Erano i cognomi diversi dei figli che ora la scuola aveva messo in luce ad alimentare congetture di ogni tipo. Nessun chiarimento, nessuna giustificazione offerta agli interrogativi maligni delle vicine di porta che, appena raccolte le indiscrezioni uscite dall'edificio scolastico, iniziarono a tessere supposizioni infamanti. A quel tempo un'unione fuori dal sacro vincolo del matrimonio era quanto di più scandaloso potesse esserci all'interno di una comunità, e quella comunità era proprio una delle persone più in vista ad essere coinvolta nello scandalo. Il tenente era uno tutto d'un pezzo, molto stimato per il suo senso del dovere e della giustizia. Come si poteva giustificare la sua connivenza a Morio Uxorio? Ma dato che contro chi conta è bene non schierarsi apertamente, le critiche venivano espresse sottovoce, giusto per mostrare quell'etico disappunto necessario a mantenere il teso filo della condivisione di pensiero, la chiacchiera che teneva vivi i rapporti di seggiola nell'ambito del vicinato. Ma Teresa percepiva ogni sguardo a metà, ogni urto di gomito, ogni battuta allusiva. Sentiva pesare su sé il marchio del disonore che la rendeva indegna della pubblica stima e lesiva dell'onorabilità del suo compagno. Soffriva molto, ma teneva tutto dentro, chiuso, a doppia mandata. Comunque questi figli crescono, questi figli diventano grandi, alcuni, il primo riesce anche a laurearsi e si trasferisce a Milano, poi altri fratelli con lui si trasferiscono a Milano, qui inizia appunto la migrazione, no? Una migrazione, uno spostamento, e pensiamo a quanti sono stati i meridionali che si sono spostati al nord, nelle città dove si costruivano le macchine, Torino, Milano, eccetera, no? E i figli adulti, insomma, cercano di farsi una vita propria, ma sono anni duri, anni molto difficili, condivisioni forzate. Il primo figlio grande ormai, che poi una cosa volevo dire, a questi figli vengono attribuiti nomi particolari che adesso vi dico, perché è molto interessante questa cosa. Il primo figlio Paride, Paride, la seconda Elena, il terzo Ettore, Achille e Ulisse e Penelope, voi avete capito, no? Sono i nomi dell'Ulisse. E chiedo appunto adesso a Floriana perché questi nomi così particolari. Vabbè, è venuto così spontaneo perché ovviamente non sono i nomi originali, ma è venuto spontaneo così perché effettivamente rispecchiano un pochino i personaggi dell'Odissea. Paride era il primo figlio, quello che in un certo senso ha avuto anche il privilegio di avere il nome del papà vero, ed era un bell'uomo, uno che aveva riscosso molto successo con le donne, e così Paride, il bell'uomo. Elena era la seconda figlia e anche Elena ha avuto una situazione un po' particolare. Elena per amore è scappata di casa, diciamo ha dovuto lottare per poter sposare l'uomo di cui si era innamorata. Ettore, diciamo Ettore più che altro il carattere di questo figlio mi ispirava, insomma, il personaggio di Ettore. Achille, l'uomo tutto d'un pezzo, quello che effettivamente era più rigido di fronte a questa situazione, quello che meno di tutti aveva accettato il problema del cognome, era un uomo molto fiero e effettivamente lui forse più di tutti aveva lottato per cercare di risolvere, di cambiare questa situazione. Ulisse era quello che se n'era andato in America a cercare fortuna e diciamo anche lui aveva preso la nave, aveva viaggiato e ed era ritornato poi dalla sua Penelope, che a casa lo aspettava. Penelope, questa invece, l'ultima figlia, faceva la ricamatrice e quindi filava e era quella che era rimasta in casa, diciamo, e che comunque aveva avuto a che fare con il cucito, e da qui insomma è venuta l'idea di chiamare così questi personaggi. E questi figli, appunto, come ha detto Floriana, prima si trasferiscono al nord e dopo arrivano a Bolzano, perché si sa in quegli anni, negli anni 30, Mussolini prometteva che Bolzano era una città che in via di sviluppo, vi era una realtà particolare che poi tra l'altro tutti conosciamo, e e dopo di loro arrivano i genitori, e così tutti quanti arrivano e si trasferiscono a Bolzano. Floriano ha accennato adesso al discorso dell'America, perché è vero, in Venezuela due di questi figli e altri insomma parenti, diciamo così, poi chi prenderà il libro vedrà, addirittura per cercare fortuna si trasferiscono e vanno per un certo periodo in Venezuela. E questo mi ha colpito molto, no? Perché, come dicevo prima, no? Pensiamo ai flussi migratori, pensiamo anche oggi a che cosa sono i flussi migratori e come non più tardi di 50, 60 anni fa, 70 anni fa, l'Italia era nelle stesse identiche condizioni, uguali. Per cui è proprio così, è un fenomeno, a seguito di una guerra, quando il tuo paese è a terra, si va a cercare fortuna da qualche altra parte, questo è. Per cui i migranti ci sono ora e i migranti siamo stati noi, lo siamo stati all'interno della nostra terra, della nostra patria, e lo siamo stati anche al di fuori della nostra patria. Questo lo sappiamo bene, anche tutta la realtà dei trentini che sono andati per esempio in America Latina, insomma sappiamo queste cose, no? Però voglio dire, è bello anche ricordarsi di questo, no? Secondo me un po' ci si dimentica, invece è giusto ricordarlo. Bene, andiamo avanti. Molto bella la descrizione di questa famiglia che arriva a Bolzano. Voi immaginate anche queste persone un po' ormai quasi un po' anziane, diciamo, no? Non così tanto, ma insomma allora, ormai 50 anni, diverse dai 50 anni di adesso. E arrivano a Bolzano dalla Calabria, cioè un mondo diverso. Ed è molto, molto bella la descrizione, piena di meraviglia, che Giuliana fa di questo trasferimento e del momento in cui arriva. Città, come si usava a definire il centro, era la parte del Bolzano verso nord, dove la vita era altra cosa. Negli abiti, nella lingua, negli odori, nel cibo, nelle abitudini. Grandi palazzi, alcuni grigi, altri color pastello affrescati, alte finestre bianche con le imposte rosse, gli erker che si affacciavano curiosi sugli avai delle strade, le interrate inginocchiate, lo stile Biedermeier, i portici con i soffitti a volta che facevano da cappello ad un susseguirsi di negozi che vendevano cose che altrove non trovavi, e i pori ricchi di merci esposti ad arte, con i pavimenti composti da lunghe assi di legno scurite dal tempo, che scricchiolavano e ti faceva un certo che avanzare oltre l'ingresso. E poi, se eri italiano, eri ancora più intimorito, perché sapevi che venivi servito per ultimo. Le commesse, le varie signorine Rottermeier, con la treccia alta a spartimento arrotolata attorno alla testa, il dirndl, che era un prato di piccoli fiori sul fondo scuro, col décolleté a balconcino, che conferiva femminilità ai seni secchi, come il loro modo di fare. Le gambe pelose, i calzini bianchi e quei sandali a frate che a quel tempo solo loro osavano calzare. Quelle signorine arrugginite più delle volte ti si rivolgevano in tedesco, e se non capivi ti lasciavano lì ad aspettare ancora e poi ancora, finché in negozio non c'erano più altri clienti o finché per dignità te ne andavi rinunciando all'acquisto. Eppure erano una meraviglia quei negozi, dall'offerta ridondante di merci ordinate per tipo, per colore, per dimensione, con le vetrine così accattivanti, dove spesso venivano allestite scenografie meccanizzate, davanti alle quali si rimaneva incollati a bocca aperta, trenini che si arrampicavano su monti di cartapesta, orsetti che inchinandosi offrivano praline di cioccolata e marzapane, cortei di angeli che entravano e uscivano da nuvole di cotone ininterrottamente fino alle 7 di sera, quando tutto si spegneva, e c'erano interi negozi di candele di tutte le bogge, di tutti i colori e dimensioni. Candele per il compleanno, per il battesimo, per la Pentecoste, per il Natale. Una tradizione nordica non compresa dai nuovi abitanti della città, che le candele le concepivano solo in chiesa o al cimitero. E se i negozi dei portici incantavano la vista, fuori era una delizia per tutti i sensi. Il profumo dei würstel venduti agli angoli delle strade con la senape e le rosette croccanti, o i pretzel, i calici di birra o il glühwein fumante se c'era freddo. Questa era la città dove tu, italiano, camminavi in punta di piedi con il timore di ricevere uno spintone accidentale da chi vestiva sarna, colone e il cappello con la piuma. Via Torino e via Milano erano ben altra cosa. Via Milano, via Torino, una toponomastica altisonante, non proprio rispondente alle condizioni di quelle strade. In realtà erano vie nuove e già densamente popolate da un crescente numero di immigranti, sistemati in appartamenti tutti uguali, in casermoni grigi a 6 piani, tutti uguali, stesse porte, stesse finestre, stessi cortili con le stesse piante al centro, che se si invocava l'ingresso sbagliato non ci si raccapezzava più. Erano case per chi aveva lasciato altrove cose e affetti, per chi incominciava da capo nella speranza di una vita migliore. In quei 6 piani, il nord e il sud, di un'Italia ancora giovane, si mescolavano dialetti, usi e costumi, superando ogni forma di campanilismo allora imperante. E si formavano legami affettivi che il tempo saldava fino a renderli quasi parentali, e ognuno poteva contare sull'accoglienza e il sostegno dei vicini, come in un'unica grande famiglia, vicaria a quella lasciata al paese di provenienza. Così era all'inizio. Poi il tempo mescolò le vite della gente e la ragione dell'utile del commercio favorì una certa apertura e la convivenza tra i due gruppi linguistici andò migliorando fino a fondere e confondere certi aspetti delle due culture. Ecco, ripeto, avete visto, no? Avete sentito, cioè, che una scrittura veramente molto bella, molto appassionata. Dicevo prima proprio delle pennellate, io mentre leggevo mi venivano in mente alcune immagini. Io mi ricordo quando ero bambina che avevo paura di andare a trovare gli zii che abitavano in via Torino, perché avevo paura di perdermi, perché veramente i cortili erano tutti uguali, c'era questo timore di non riuscire a trovare il portone giusto. Non so se è capitato, questa cosa è capitata anche a voi. Bene, la famiglia si trasferisce, i figli crescono. Teresa vede i suoi figli e assiste, come dire, no? Come ogni mamma fa, in silenzio, cerca di non impicciarsi più di tanto, alcune cose le approva, altre no, però i figli sono ormai grandi, sono adulti, le loro scelte le fanno e la mamma li aiuta quando può, con i nipoti, come succede nella vita, come succede nelle famiglie. Però nel frattempo Teresa, come dire, invecchia e via via si ammala, e questa faccenda del cognome e comunque della sua vicenda la tarla dentro e finisce per diventare effettivamente quasi una malattia anche questa. E arriva il momento che sente che praticamente non ha più niente da fare nella vita, perché i figli ormai sono adulti, lei sta per morire e li chiama tutti quanti a sé. Li chiama a sé e vuol dire loro qualche cosa. Lei che aveva serbato queste cose nel suo cuore, che le aveva tenute e che, come dire, per dignità e per non ferire i suoi figli aveva voluto, come dire, mantenere in un certo senso il segreto, per così dire, si rivolge ai figli. E adesso io pregherei Floriana di leggere questa parte che è scritta in calabrese, poi c'è anche la traduzione in italiano, ma perché è molto molto bella. Figli miei, prima i miei neri, voglio cercare perdono, sgarro che aveva fatto con la storia mia, non voleva farmi male, piuttosto morire, perdonatemi. Cioè praticamente lei dice che non era sua intenzione fargli soffrire per il suo peccato e chiedeva loro perdono, congiungendo le mani di tutti perché tutti rimanessero uniti, così come lo erano stati sempre nella vita. Furono le sue ultime parole, poi si addormentò e una lacrima portò via il suo respiro. Una donna coraggiosissima, una donna che ha saputo tenere unita la famiglia, che ha attraversato insieme al marito battaglie, migrazioni, e che comunque ha trasmesso ai figli un grandissimo senso di famiglia e di unione. Vorrei leggere questa ultima pagina e poi concludiamo, che mi sembra molto bella come chiusa. Lollana scrive: Teresa era mia nonna, la dolce nonna a cui ormai ben poco era rimasto della passata beltà. Non camminava più, muoveva stento e tremando il solo braccio vivo, parlava con un fil di voce quel dialetto che tanti anni di nord non erano riusciti ad ammorbidire. Il suo viso si era macchiato di vecchiaia, ma i suoi occhi vivi parlavano per lei con la voce del cuore. Sentivo che mi voleva tanto bene, quell'amore caldo come il sole della sua terra, quell'amore con cui aveva nutrito i suoi figli e poi trasmesso a tutti noi nipoti, anche se per troppo poco tempo. Tra le pieghe della sua vita si legge la storia di un'Italia in fieri, un paese in lotta per riconoscersi unito sotto e sopra, cercando di superare differenze, diffidenze e campanilismi. E quanta strada è stata percorsa dal tempo in cui Teresa, emblema della donna imprigionata tra tradizione e ignoranza, veniva impedito di affermare i propri diritti, di difendere la propria dignità, di accedere a quel sapere riservato all'uomo considerato essere superiore. Nonna Teresa, relegata a figura di secondo piano, analfabeta, mutilata nel fisico e nell'anima, è comunque riuscita ad insegnare ai suoi figli il valore della famiglia e degli affetti, e fino alla fine dei suoi giorni è stata amata e rispettata da ciascuno di loro. Quell'omerica stirpe che con i propri sacrifici, rinunce e migrazioni, successi ed insuccessi, ha contribuito a ricostruire un paese raso al suolo dalla guerra, inseguendo il sogno di un avvenire migliore per la propria prole. E noi, della generazione successiva, abbiamo raccolto i frutti della loro avventura, così come da nonna Teresa ci è arrivato quel senso della famiglia che ancora oggi ci unisce e ci sostiene. Consegno a te, figlia mia, il ricordo che ho di lei, la sua scomoda storia, nella quale affondano le mie radici e, in piccola parte, anche le tue. Siamo tutti frutto di una storia e questa è la nostra ed è giusto che non vada dimenticata. Volevo solo dire che effettivamente è catartico scrivere la propria storia, perché cioè io stessa inizialmente avevo delle riserve per tanti motivi, forse riuscirete anche a trovarli tra le righe, e questa scrittura, diciamo, mi ha dato la possibilità di liberarmi da certi pensieri, da certi fantasmi, e mi ha veramente aiutato e mi ha anche avvicinato molto di più a questa grande famiglia che in parte è qui e che comunque in gran parte continua ad avere attorno, insomma, perché nonna Teresa ci ha lasciato appunto questo grande amore per la famiglia e noi l'abbiamo, è un retaggio, diciamo, che abbiamo accolto in pieno e ci vogliamo tanto bene e continuiamo a cercarci anche se abitiamo in posti diversi. Fine. Allora qui sono gli libri, ci sono, potete acquistarli, costano 10 euro il volume. E noi abbiamo concluso, io vi saluto e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione che avete prestato, spero di non avervi annoiati e buonasera a tutti, grazie.